2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 10 gennaio 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024, quindi 2024 scritto in cifra, @radio24.it. Anche questa puntata, come sempre, sarà disponibile sul nostro sito internet dalla prossima settimana su www.radio24.it. Ci sono varie modalità per downloadare il nostro file. Quella che vi consigliamo è il servizio podcast per aggiornare settimana dopo settimana il file MP3 di 2024. Tutte le informazioni sono online, oppure se volete potete inviarci appunto un'email e vi risponderemo con tutte le istruzioni per fare questo abbonamento gratuito. In realtà si tratta di una sottoscrizione, basta mettere un link all'interno dei software che gestiscono il podcast. L'operazione è estremamente semplice. Bene, in questa settimana, come vi ho annunciato 7 giorni fa, ci occupiamo dei 2 principali appuntamenti di gennaio, sicuramente tra i principali, più importanti appuntamenti dell'anno. Entrambi si svolgono sulla costa occidentale degli Stati Uniti, uno in California, San Francisco, l'altro a Las Vegas, quindi in Nevada, nel deserto del Nevada. Comunque a poca distanza l'uno dall'altro, ma anche a poca distanza temporale. L'uno è il Macworld, ovvero l'appuntamento principale dedicato al mondo Apple, ma sicuramente questo sarà l'ultimo, quindi da ricordare nei libri di storia come l'ultimo grande appuntamento dove la mela solitamente fa grandi annunci. Quest'anno un'edizione un po' sottotono, ma più tardi ne parleremo ampiamente con tutti i dettagli di questa edizione. Spostandoci invece a Las Vegas, l'appuntamento è ancora in corso, si tratta del Consumer Electronic Show, il principale appuntamento dedicato all'elettronica di consumo che ogni anno presenta le principali novità che poi vedremo uscire nei negozi durante i successivi mesi. E quindi sicuramente questo è un appuntamento da tenere sott'occhio, un appuntamento che normalmente viene seguito da Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale, il nostro esperto di audio e video digitale. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Io ho detto che tu segui normalmente il Consumer Electronic Show, ma quest'anno per la prima volta dopo parecchi anni, perché io ricordo che ci siamo sentiti per parecchi anni al telefono, anche con qualche problema di fuso orario, quest'anno sei rimasto qua perché ci sono meno novità del solito? No, assolutamente no, perché ho un buon numero di giovani inviati sul campo, quindi sono qui a coordinare il lavoro dall'ufficio. A proposito di novità, vorrei proprio partire da qua. C'è chi dice che l'industria dell'elettronica di consumo è di fronte ad una serie di sfide, visto il momento critico per l'economia internazionale, che ovviamente colpisce anche questo settore. Tutto ciò si è visto anche negli annunci, o comunque si è intravisto tra i padiglioni del Consumer Electronic Show a Las Vegas, oppure pare che non ci sia questa crisi anche per il settore? Beh, se ne è parlato molto nei giorni precedenti all'apertura della manifestazione, quindi a fine dicembre, inizio gennaio, proprio i primissimi giorni di gennaio, perché si diceva questa sarà un'edizione del Consumer Electronics Show un po' sottotono. Anzi, ho visto anche su qualche telegiornale, qualche servizio in questi termini. Ovviamente non è assolutamente così, c'è qualche espositore in meno, forse è anche un bene perché la manifestazione è diventata anche troppo grande, ma ci sono tantissime novità e i segnali che arrivano dal mercato sono in controtendenza rispetto alla crisi. Perché è vero che c'è la crisi, se ne parla intanto, però i beni legati alla casa, quindi all'elettronica di consumo, si prevede che invece continueranno ad andare bene, abbastanza bene, perché proprio nei momenti di crisi magari si viaggia meno, ci fa un po' meno turismo, si permette un po' meno spese quelle che una volta si chiamavano voluttuarie, sì, però sì. Vivendo in casa non ci si nega qualche passatempo in più. Beh, pare infatti che questo settore, o comunque parte di questo settore, abbia tenuto abbastanza bene nel periodo natalizio. Poi vedremo, perché è difficile fare i conti a pochi giorni dalle feste di Natale, bisognerà fare i conti tra qualche settimana. Beh, il segnale comunque l'abbiamo visto, sotto Natale non ci sono state delle clamorose offerte speciali, dei sottocosto incredibili, perché evidentemente le sensazioni degli operatori è che il mercato comunque tenesse, con dei prezzi sicuramente convenienti, molto buoni come sono gli attuali livelli di prezzo, ma non eccessivamente ridotti per sostenere dei consumi che ci sono stati. Senti, ancora due cose sul Consumer Electronics Show. Noi in Italia abbiamo visto fallire, diciamo così, o comunque scemare nel corso del tempo le grandi fiere dell'elettronica di consumo. Molti ricorderanno in modo particolare lo SMAO. Questa è una sorta di SMAO o è una fiera diversa dedicata soprattutto agli operatori? Beh, allora, è una fiera destinata ovviamente agli apparecchi di elettronica di consumo, quindi quelli per tutti noi, per tutti gli utenti normali, per la casa. Sì. Però è una manifestazione che è destinata solo ed esclusivamente ai visitatori professionali, quindi a tutti i dealer, gli operatori, i giornalisti, la stampa ovviamente, che converge su Las Vegas e una volta all'anno almeno si ritrova nello stesso posto. Questa concentrazione in un punto solo, o quasi, è favorita dal fatto che i prodotti non sono più locali. Un TV che esce negli Stati Uniti, esce in Giappone ed esce in Europa nel corso dello stesso anno. Tutti i prodotti che vediamo a Las Vegas a inizio anno, probabilmente, a parte i prototipi, le preview tecnologiche, ma arriveranno tutti anche in Italia entro il corso del 2009. Quindi andare a Las Vegas per un operatore, per un rivenditore, vuol dire semplicemente poter capire che prodotti usciranno e poter fare i propri programmi in maniera adeguata, visto che oggi non è più concesso a nessuno ragionare giorno dopo giorno, ma è necessario programmare i propri investimenti. Trend, tendenze, che cosa possiamo dire dai primi giorni almeno di questa manifestazione? Poi naturalmente mentre vi parliamo la manifestazione è ancora in corso, si sta concludendo, ma fondamentalmente quasi tutti gli annunci, insomma le tendenze si sono capite già dalle prime ore. Sì, siamo a metà della manifestazione, ci sono ancora due giorni, ma in realtà il tema fondamentale è rete. Quindi tutto è interconnesso con tutto. Sì, ovviamente con internet, ma anche gli apparecchi tra di loro, quasi sempre, molte volte, preferibilmente diciamo con reti a filo che sono più affidabili, ma sempre più con soluzioni senza filo, wireless, basate su connettività wifi classiche oramai per le connessioni a internet, o anche modalità nuove, per esempio per trasportare video in alta definizione da un apparecchio all'altro, oppure per trasportare musica in tutte le stanze della casa senza tirarne anche un filo. Ecco, sono soluzioni che rendono molto più semplice l'implementazione delle tecnologie che già conosciamo, quindi l'audio, il video che già conosciamo, ma implementarle in un ambito domestico in maniera più semplice in una sola stanza o addirittura in tutta la casa. Noi parliamo spesso di televisori e allora partiamo da qua, perché mi sembra di capire che tra le novità più interessanti ce ne sono molte legate a questo prodotto. Ricordiamo anche agli ascoltatori che noi ovviamente potremo parlare di alcuni degli annunci, alcune delle notizie che sono state diffuse e annunciate al Consumer Electronics Show. Poi se uno ha voglia, il desiderio insomma di vedere un po' una panoramica generale, può andare sul sito di AF Digitale, afdigitale.it, dove mi pare di capire avete coperto praticamente tutto, visto che, come dicevi tu, hai una buona squadra di giovani che sta lavorando a Las Vegas. Stiamo coprendo, perché le news arrivano a livello a cadenza oraria, ovviamente tenendo conto del fuso degli Stati Uniti. Sì. Connected TV, che cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente un TV che ha una presa di rete. Presa di rete normalmente a filo Ethernet, però ci sono anche delle soluzioni senza filo, e quindi si connette a internet. Per fare che cosa? Dice? Tante cose. Innanzitutto scaricare dei dati che possono essere dalle guide ai programmi, una sorta di super teletext, cioè super televideo, tanto per intenderci, quindi arrivano dei feed di notizie che arrivano dalle fonti che l'utente seleziona. Quindi sì, ci sono tanti fornitori di notizie e io sono interessato a quelle finanziarie, sono interessato a quelle di sport, sono interessato a altre, e le notizie mi arrivano, addirittura possono saltarmi fuori sopra la trasmissione come dei piccoli pop-up, se c'è una breaking news, un qualche cosa di importante su un canale al quale io mi sono iscritto, un canale news, ecco, questa, come in un'applicazione per computer ovviamente, però tutto ciò viene sul TV di casa, mi può venire fuori questa notizia. E queste sono le applicazioni più semplici, perché sono praticamente testuali. In realtà le altre applicazioni bellissime che abbiamo visto e che sono state implementate più o meno da tutti i principali produttori sono quelle che di streaming vero e proprio, di contenuti video. Quindi la possibilità di vedere sul proprio TV di casa dei contenuti video che non vengono dal segnale d'antenna, che non vengono né dal digitale terrestre né dal satellite, ma vengono da internet. Questo già si può fare con un computer. Con un computer collegato al TV posso farlo anche col TV, però comunque devo avere un mouse. Un po' complicata. Sì, sì, sì. Invece con questi TV si fa direttamente col TV dal telecomando, quasi come se si selezionasse un canale TV normale, soltanto che invece di andare su Rai 1, Rai 2 vado su YouTube e posso vedere tutto il contenuto di YouTube, chiaramente come se fosse un telefonino col T9, scelgo faccio la mia ricerca, sì, quindi sì, scelgo il tema, no? Se cerco... quindi diciamo io sono libero di andare ovunque in rete, non ci sono dei vincoli o comunque delle strade preconfezionate dalle TV. No, ci sono delle strade preconfezionate dai produttori di TV, o meglio ogni marca ha una sua, come dire, una sua piattaforma. Sì. Questa piattaforma offre accesso a determinati contenuti, per esempio Panasonic è una delle prime che ha presentato questa piattaforma, questo tipo di piattaforma ce l'ha già attiva negli Stati Uniti, arriverà a marzo anche da noi, ha già l'accordo con YouTube, l'accordo con Eurosport per l'Europa, e quindi chiunque abbia un TV di questo tipo può vedere tutto YouTube e può vedere 300 servizi di Eurosport in 5 lingue, italiano compreso per esempio, e navigarli on demand, quindi vederli non quando vanno in onda, vederli quando vuole lui, quando vuole, sì. E questo è il grosso vantaggio. E così via, anche Samsung ha fatto l'accordo con Yahoo in questo senso, e non si sa per l'Europa se questo accordo verrà poi in qualche modo completato con altri provider. La cosa interessante è che Samsung ha deciso di rilasciare il kit di sviluppo dei link, dei collegamenti alla propria piattaforma. Okay. Quindi, per esempio, per fare un esempio, se Radio 24 volesse mettere in condizione gli utenti di questi TV Samsung di sentire Radio 24 o di vedere la TV del Sole 24 Ore su questi TV, potrebbe sviluppare il suo applet, tanto per intenderci, e l'utente potrebbe sceglierlo tra quelli disponibili e caricarsi quel canale. La stessa cosa in qualche modo ha fatto LG, che negli Stati Uniti per esempio ha stretto un accordo con Netflix, che è la più grande piattaforma di streaming e noleggio virtuale, noleggio virtuale di film, per cui chiunque sia abbonato a Netflix può vedere, non scaricando sul computer ma direttamente sul proprio TV, il film, rendendo praticamente il noleggio fisico questo è un bel tema, ci dedicheremo una puntata di 2024 magari con qualche ospite perché qua cambia proprio il panorama, non solo tecnologico dal lato utente, cioè a casa mia, non cambia solo il prodotto che io ho davanti, ma cambia proprio lo scenario anche di offerta sul mercato. Insomma, soprattutto se lo guardiamo dalla prospettiva italiana, in cui da anni si discute del monopolio, del duopolio, delle frequenze, di quanti canali dovevano essere sul terrestre, quanti dovevano andare su satellite, 2, 3, cioè tutte queste polemiche vengono completamente superate, si cerca di normare l'etere, ancora si sta normando il digitale terrestre e in maniera un pochino anacronistica, se si pensa che presto, quest'anno, avremo sugli scaffali dei TV che prendono sì i segnali da Rai, Mediaset, La 7, eccetera, eccetera, però ma anche segnali che arrivano da tutt'altre fonti e che non sono affatto normati. Quindi il legislatore dovrebbe svegliarsi un po', mettersi al passo dei tempi. Non solo su questo tema. Mm-hmm. 2024. Stiamo parlando delle novità che arrivano dal Consumer Electronics Show che è in corso negli Stati Uniti a Las Vegas. Tra poco parleremo anche di un altro appuntamento della settimana importante, ovvero il Macworld, l'appuntamento classico di inizio anno con il mondo della mela, con il mondo di Apple. Quest'anno un appuntamento che per la prima volta dopo parecchi anni non ha visto sul palco Steve Jobs, e parleremo anche di questa assenza. In questa parte di 2024 è con noi Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale. Dunque Gianfranco, tu ci hai detto che tra le notizie, che sono effettivamente moltissime, tra gli annunci numerosi che sono stati fatti nei primi giorni, qualche giorno fa o qualche ora fa al Consumer Electronics Show, molti riguardano il mondo delle TV. Abbiamo parlato delle cosiddette, le chiameremo così anche prossimamente, le connected TV, quindi le TV che si connettono alla rete o di casa o alla rete internet. Hai detto che arriveranno nei prossimi mesi, saranno prodotti di massa, cioè tutte le TV saranno equipaggiate di queste connessioni, o rimarranno un prodotto prevalentemente d'élite, quindi solo poche TV saranno dotate di queste connessioni? Allora, il mondo delle TV è forse il segmento più competitivo di tutta l'elettronica di consumo. C'è più competizione, è quello dove si decidono le sorti dei grandi brand, e dove la prima pagina di tutti i volantini, guarda caso, c'è sempre un TV. Sì. In questo momento, cioè il primo lancio di queste tecnologie sarà soltanto sui top di gamma o quasi, quindi sulle 2-3 linee più alte delle 6 o 7 che tutti i produttori di TV offrono, quindi diciamo sulla metà più bella della gamma. La spinta alla competizione, la necessità di avere nuove funzionalità per differenziare i propri prodotti sulle funzioni e non soltanto sul prezzo, secondo me spingerà nel giro di un altro anno ad avere queste funzioni sulla stragrande maggioranza di tutti i TV da un certo pollicciaggio in su, quindi TV da salotto. Sì, sì, sì. Nel capo di un anno e mezzo avranno tutti queste anche funzioni. Anche perché mi pare di capire che dopo l'arrivo dell'alta definizione di grandi novità ce ne saranno poche, quindi bisognerà inventarsi appunto, che ne so, la connected TV, le connessioni wireless. Non ci saranno grosse novità in termini di qualità del segnale, perché arrivate all'alta definizione piena, al Full HD, siamo a una qualità che accontenta sicuramente la visione di uno spettatore con un TV 42, 50, 56, anche 60 pollici a 3-4 metri di distanza, di più non ha senso fare. Sì. Invece ci saranno delle nuove funzioni che saranno sull'usabilità del TV, sull'integrazione dei contenuti, e quindi il TV diventerà veramente l'hub, il concentratore di tutti i contenuti domestici, sì, domestici, ma anche oltre, sì. Quindi i contenuti che arrivano dalla rete. Senti, abbiamo visto insomma una conferma di un trend che conosciamo già da un po', che è quello del touchscreen. Ci sono prodotti che si comandano con il tocco di una, due, tre dita, dipende insomma da quante uno ne vuole utilizzare. Altre cose che ti sembrano interessanti in questo mercato ormai incontrollabile, visto che le notizie escono a ritmo molto, molto veloce, anche se questa settimana devo dire che le notizie principali arrivano proprio da Las Vegas. Sì, beh, allora sicuramente touchscreen, forse anche troppo, anche dove non serve, dove un semplice pulsante tradizionale sarebbe stato forse più usabile, ma comunque va bene così. Direi che altre due parole vanno fatte sui TV LED. Ah! TV LED, da non confondere con i TV OLED, che sono tutt'altra tecnologia, e ne parleremo quando usciranno un po' più avanti. I TV LED sono i TV, in realtà, a cristalli liquidi, quindi LCD, retroilluminati a LED. Questa è la dizione totale. Ma siccome è molto complicato dirlo, tutto il mercato parlerà di TV LED. Bisogna ricordare che è sempre una tecnologia LCD, ma la retroilluminazione, invece di essere fatta con dei sottili tubini al neon, tanto per semplificare, è fatta con dei LED, quindi delle micro lampadine, diciamo così. Sì. Una matrice di micro lampadine. Che vantaggi dà la retroilluminazione a LED, che sta uscendo praticamente anche lì da parte di tutti i produttori? I vantaggi sono, a parte una maggiore stabilità della luce, una purezza migliore proprio cromatica della luce, ha due vantaggi fondamentali. Consumi molto più bassi, il 30-40% in meno anche, quindi sicuramente non è poco. Non è poco. E il secondo vantaggio è che mentre un tubo, un micro LED, un micro neon, chiamiamolo sì. così, deve essere acceso tutto o tutto o niente, non si può accendere un pezzo. Sì, sì. I LED possono essere accesi singolarmente. Quindi se la retroilluminazione che c'è dietro il pannello segue in perfetta sincronia l'immagine, quindi dove c'è una zona bianca dà molta luce, dove c'è una zona nera spegne i LED e quindi dà meno luce, ecco che il nero dei TV LCD diventa veramente nero. Certo. E il bianco può essere luminoso quanto si vuole. Aumenta il rapporto di contrasto, insomma, semplificando, l'immagine ne ha un gran miglioramento. È la nuova frontiera di TV LCD. In realtà sono una nuova famiglia di TV LCD, ma tutti li chiameranno TV LED. E quindi dobbiamo incominciare ad abituarci a questo nuovo termine, ecco, sì. Capire di che cosa stiamo parlando. Da non confondere nemmeno con i TV SED, che era un'altra tecnologia che mi sembra che abbia per il momento. Diciamo che su un binario sì. morto, poi sì. si può sempre andare avanti nelle cose. Trasmissioni anche sui SED, eccetera. Sì. Dunque, non abbiamo moltissimo tempo, però insomma ci sono tante altre novità. Poi parliamo anche brevemente del mondo PC computer, perché poi oramai questo è un mondo che fa parte a pieno titolo dell'elettronica di consumo. Ma a proposito di immagini, mi sembra di capire che ci sono delle novità anche per quanto riguarda le videocamere, la capacità di immagazzinamento dati, che è incredibile. Certo, io parlerei per altre 4 ore, ma tu giustamente mi dici che il tempo è quello che è, quindi pizzico qua e là qualche novità simpatica. Per esempio Sony ha presentato un camcorder con il localizzatore GPS integrato, che non serve per navigare, non serve per andare per scegliere la strada, ma semplicemente fa il cosiddetto geotagging delle immagini, quindi registra insieme ai file che memorizza sull'hard disk interno, una videocamera in alta definizione, registra se si è all'aperto, quindi se si è in copertura GPS, il posizione di latitudine e longitudine precisa di dove si sta riprendendo. Questo chiaramente entra a far parte degli indici di tutti i file. Io poi, quando riguardo i file sia su PC che sulla videocamera stessa, posso navigarli ovviamente per data, per ora, ma anche per località. Quindi vedo proprio sul display la mappa dell'Europa, la mappa dell'Italia, a seconda di quanto sono sparsi i miei file, e posso scegliere il video girato a Las Vegas, il video girato a Milano, il video girato a Parigi, anche se è stato fatto in momenti diversi, anche distanti mesi l'uno dall'altro, quindi con gli amici davanti al computer o davanti si dirà ti ricordi quella volta siamo andati al mare? Sì, eccolo via. Qui quindi c'è chi dice che non avremo più bisogno di cambiare le schede di memoria oppure scaricare i dati della nostra fotocamera, videocamera sul computer, perché abbiamo la scheda piena, insomma non abbiamo più spazio per immagazzinare nuovi dati. Una volta dovevamo cambiare la cassetta perché la cassetta era piena, esaurita. Oggi insomma ci sono o gli hard disk oppure le schedine che mettiamo nelle fotocamere o videocamere. Cosa sta succedendo? Questo caso sta cambiando. Ma diciamo tra gli annunci più eclatanti quello di Panasonic, che ha presentato una SD card, quindi una delle schedine di memoria, nella versione XC, che vuol dire Extended Capacity. E in realtà esteticamente sembra un SD card normale, in realtà dentro può contenere è stata mostrata e fatta vedere 2 terabyte incredibile di dati, quindi 2000 gigabyte. 2000 gigabyte significa probabilmente tutti i video e tutte le fotografie di una vita intera. Significa che praticamente uno compra la card e in teoria non la cambia mai, la lascia in eredità ai figli con tutte le proprie memorie. Senti, ci sono delle novità che riguardano anche il mondo dei PC. Allora, detto in estrema sintesi, mi sembra di capire che qua il mercato si sta spostando pesantemente su il mobile, quindi pioggia di netbook dovunque, computer portatili, piccoli, il portatile la fa da padroni, anche perché sui formati più grandi c'è poco da inventare, cioè ormai le macchine le avevamo viste tutte, quello che mancava era un po' la mobilità, ora c'è e si sta anche un pochino raffinando rispetto alle prime macchine che abbiamo visto. Tra tutti mi sento di segnalare i nuovi Vaio della serie P Lifestyle, che sono particolarmente belli perché comunque sono piccolissimi, forse più piccoli anche dei netbook a cui siamo abituati. Hanno uno schermo di un formato un po' anomalo, però con una risoluzione molto alta, quindi è un 8 pollici sempre, però è 1600x768, quindi una risoluzione molto più alta dei netbook normali, e ha, come dire, un cuore che non è quello di un netbook, quindi di un PC un pochino light, diciamo un po' semplificato, ma è quello di un PC in realtà normale, quindi con un processore molto potente, con 2 giga di RAM, con sistema operativo Windows Vista, quindi con delle caratteristiche particolari, col modem 3G già integrato, con tutte le forme di connettività possibile, quindi un computer diciamo di piena funzionalità, però in un form factor veramente molto piccolo. Il prezzo che verrà lanciato negli Stati Uniti è molto interessante, che è $900. Sarebbe già molto interessante se un PC di questo tipo rimanesse a €900, quindi facendo una traduzione, una conversione da dollaro a euro un po' particolare, il timore è quello che possa invece essere posizionato, chissà perché, a un prezzo più alto. Ma si parla già superiore ai 1000, e questo poi magari mi spiegheranno perché, attraversando l'oceano, l'elettronica viene a costare di più, ma questo è, questa è un'idea mia personale. No, ma insomma, molti si fanno questa domanda, e anzi molti criticano queste scelte. ...2024. Seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24, andiamo in onda tra le 15.30 e le 16.30, oppure se preferite anche online sul nostro sito internet www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024, quindi 2024, radio24.it. Vi ricordo che anche questa puntata di 2024 sarà disponibile con il servizio podcast a partire dalla prossima settimana, quindi potete scaricare automaticamente il nostro file MP3 sul vostro sistema di gestione dei podcast. Questo è un nuovo modo per erogare contenuti audio per quanto riguarda le radio, ma anche contenuti video per tutti coloro che riescono o vogliono mettere video in rete per metterlo a disposizione. Ci sono anche molti editori che hanno scelto questa modalità. Quindi il podcast è un nuovo modo per erogare da parte dei produttori di contenuti, ma anche un nuovo modo per utilizzare i contenuti, leggerli, ascoltarli, vederli. Ci sono vari software che permettono di gestire il podcast. Se volete alcune informazioni le trovate sul nostro sito internet, oppure scriveteci una email. Una notizia, sono poche le notizie interessanti di questa settimana che non arrivano dalla costa occidentale degli Stati Uniti, quindi dal Consumer Electronics Show di cui stiamo parlando, e tra poco concluderemo a parlare con Gianfranco Giardina di questo appuntamento, e dal Macworld di San Francisco di cui parleremo tra poco. Dicevo, sono poche le notizie che arrivano da altre parti, però è giusto segnalare, visto che ce ne siamo occupati la settimana scorsa, che continuano le polemiche, il dibattito, chiamatelo come volete, in Gran Bretagna per la nuova legge che dal prossimo marzo obbligherà tutti i gestori di servizi internet a registrare per ogni anno tutte le email mandate e ricevute. Il provvedimento è stato pensato per combattere la minaccia al terrorismo, ma ha già scatenato polemiche perché, oltre a essere molto costoso, potrebbe creare vincoli, alcuni dicono, alla libertà e alla privacy individuale. La scorsa settimana abbiamo parlato del tema in maniera più ampia, visto che in Gran Bretagna si sta addirittura parlando di un mega database che potrebbe essere lanciato nel corso delle prossime settimane, nel corso dei prossimi mesi, che addirittura potrebbe essere gestito da un'azienda privata. Un mega database che dovrebbe o potrebbe raccogliere tutte le informazioni digitali, archiviandole appunto per alcuni mesi o addirittura per anni. Questo è un tema estremamente importante. Se vi siete persi la puntata della scorsa settimana, vi consiglio appunto di andare sul nostro sito internet per recuperarla e ascoltarla, ma questo è tra l'altro un tema di cui ci occuperemo prossimamente in altre puntate di 2024. Stiamo parlando del Consumer Electronics Show e vogliamo concludere con un'altra delle notizie che è arrivata da Las Vegas, dal deserto del Nevada. Si è parlato molto di Windows 7. Vi do subito una notizia delle ultimissime ore: Microsoft ha annunciato ieri sera di avere fermato i download della versione beta del nuovo sistema operativo Windows 7. Quindi Microsoft ha lanciato ufficialmente la versione beta, quindi la versione che precede quella definitiva di questo sistema, che dovrebbe arrivare nel corso di quest'anno o molto probabilmente nel prossimo anno. Ha lanciato la versione beta, quindi, che soprattutto gli sviluppatori, gli esperti, insomma gli amanti dell'informatica possono scaricare dalla rete. Microsoft dice che ha dovuto fermare il download per aggiungere più server a causa dell'alta domanda, quindi anche in questo caso le cose sono andate, insomma, da un certo punto di vista molto bene per Microsoft, ma qualche problema è stato incontrato. Probabilmente nelle prossime ore la cosa verrà sbloccata. Però, visto che, come dicevamo, Gianfranco Giardina ha una piccola squadra che sta seguendo il Consumer Electronics Show, Gianfranco, che cos'è, com'è e soprattutto come funziona e che cosa promette questo Windows 7, il prossimo sistema operativo di Microsoft? Chi già in queste ore l'ha provata, io ancora no, però chi l'ha già provata dice che effettivamente questa release è una specie di Windows Vista, migliorato ovviamente su alcuni in alcuni punti, ma molto simile, però decisamente più veloce e apparentemente molto molto stabile. Poi sarà il tempo a dirlo, ma non sarà neanche il tempo, saranno tutti i nostri ascoltatori forse che decideranno di scaricarla e di provarla su un computer. Allora, io ho detto, concludiamo con Windows 7, con Windows 7, questa nuova versione che Microsoft sta cercando di mettere sul mercato visti i problemi di vista, ma invece in realtà vogliamo concludere con c'è sempre in ogni edizione qualche cosa di strano, curioso, che probabilmente non avrà molto successo. Quest'anno si sono inventati l'eco button, il bottone ecologico. Che cos'è? Dal punto di vista tecnologico non è niente di straordinario, anzi è semplicemente un bottone, un bel pulsantone da mettere sulla scrivania, che si collega USB al computer. Benissimo. Nel caso in cui si dovesse interrompere il lavoro al computer per una piccola pausa alla toilette, piuttosto che per una telefonata, per una merenda o per un caffè, ecco che l'utente dovrebbe schiacciare l'eco button. Il PC non fa nient'altro che mettersi in standby. Ovviamente il driver è fatto in modo. E tu dici, ma potevo farlo col mouse. Potevo farlo col mouse, però i ricercatori che cosa dicono? Che col mouse non lo fa nessuno. Però con l'eco button è già lì, è sul tavolo, si schiaccia, si illumina, è una cosa istantanea lo stand-by, istantaneo anche poi il risveglio del computer quando si torna al lavoro, e così, secondo chi lo propone, ovviamente, questo sarebbe molto più usabile, quindi molto più funzionale. Okay. La cosa simpatica, a cosa serve uno è veramente simpatica, per mettere in stand-by, ma poi alla fine? Serve perché ovviamente fa risparmiare energia nel momento in cui lo stand-by fa passare un computer normale dai 115-120 watt di un computer che non fa niente, di un desktop che non fa niente, ai 6-7 watt dello standby, quindi sicuramente c'è un risparmio di circa 100 watt. Okay. Il software che governa questo sistemino, il piccolo programma che governa questo sistema, quando viene messo in standby fa partire un timer e così conta quanto tempo lo teniamo in standby con l'eco button. A fine giornata, a fine anno, a fine periodo, quando vogliamo, fa una cosa simpatica, cioè ci dice quanti metri cubi di CO2 abbiamo risparmiato premendo l'eco button. E non solo, comunica al server centrale questi dati, se ovviamente si dà la liberatoria per farlo, e così il server centrale può dire tutti gli eco button distribuiti sul globo quanti metri cubi di CO2 ha risparmiato. Che poi funzioni o no, se si va sul sito del produttore si vede che tra le offerte ci sono delle offerte per gli utenti privati, costa una decina di dollari, quindi molto poco, ma anche le offerte per le aziende, perché si vuole proporre chiaramente alle aziende di avere un profilo più green, quindi più legato all'ambiente, quindi mettere tutti i PC di tutte le aziende con l'eco button. Vabbè. C'è sempre qualche ricercatore che ha un po' di tempo da perdere. Bene, io ringrazio Gianfranco Giardina, naturalmente come dicevo su afdigitale.it ci sono molte altre informazioni, molte fotografie da questo importante appuntamento di Las Vegas. E poi tutto il reportage sul prossimo numero di febbraio. Esatto. Ma avremo sicuramente modo di rivederci e di risentirci. Grazie a Gianfranco Giardina, buon lavoro, visto che insomma con le notizie che ci sono il lavoro non mancherà. No, sicuramente no, grazie mille. E naturalmente vi ricordo che notizie e informazioni sul Consumer Electronic Show le trovate anche sul portale del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Adesso ci fermiamo per un minuto, tra poco riprenderemo questa puntata di 2024 parlando di altre notizie che arrivano dalla vicina San Francisco, insomma vicina si fa per dire a Las Vegas, anche se viste le distanze americane potremmo dire che le due città sono vicine o comunque sono in un'area dove si respira tecnologia un po' ovunque, anche se c'è chi ha detto recentemente che vista la crisi economica soprattutto i venture capitalist, quelli che finanziano le grandi aziende, quelle che prima erano piccole poi sono diventate grandi aziende di tecnologia, hanno un po' rallentato il flusso di investimenti e c'è chi teme per la Silicon Valley, un posto dove sono nate tante idee, ma sono nate queste idee grazie anche ai finanziatori che hanno pesantemente finanziato anche di recente grandi idee, grandi progetti che poi sono diventati appunto grandi aziende. Vedremo se questo vento che sta coinvolgendo un po' tutti i settori coinvolgerà anche quello dei venture capitalist che sono stati per anni molto attivi soprattutto nell'area della Silicon Valley. Ci fermiamo per un minuto, tra poco andremo a San Francisco per parlare del Macworld, l'appuntamento di inizio anno della Apple che nel 2009 metterà la parola fine a questa lunga serie di appuntamenti e di annunci che hanno fatto in parte la storia della mela. Una delle rare canzoni che vanno in onda all'interno di 2024, questa parte potremmo dire si svolge virtualmente a San Francisco, in realtà siamo nei nostri studi di Milano. Saluto Antonio Dini, un collega del Sole 24 Ore. Antonio, bentornato a 2024. Grazie Enrico, grazie per avermi invitato. Perché ho detto che ci troviamo almeno virtualmente a San Francisco? Questa è una delle rare volte in cui tu non sei a San Francisco in questo periodo. No, sono a Milano, come sappiamo, visto che siamo uno di fronte all'altro, per altri motivi, nonostante a San Francisco succeda quello che di solito mi vede da quelle parti, come forse qualche ascoltatore si ricorda. Quante edizioni ti sei sciroppato, insomma, quante edizioni hai passato del Macworld Expo, alcuni dicono, ma insomma, semplicemente Macworld? Dal 2002. Quindi basta fare il conto levando l'edizione del 2009 e aggiungendo però anche l'edizione estiva della Worldwide Developer Conference. Ah, questa non la sapevo, non faceva parte dell'elenco. Senti, allora diciamo innanzitutto che il Macworld è una fiera, non è la fiera della Apple, ma di fatto negli anni è diventata la fiera della Apple. Certo, è organizzata da una società specializzata che lo fa anche in altri settori, come per esempio il Linux World oppure altri tipi, che si chiama IDG, ed è diventata la fiera della Apple nel momento che è nata in sincronia con il Macintosh. Il Macworld è nato nel 1984 praticamente con accanto il Macintosh e da 11 anni a questa parte si è tenuta con il grande sacerdote del culto del Mac, ovvero quello Steve Jobs, che invece quest'anno non c'era. Quest'anno ci sono stati due annunci importanti che hanno un po' congelato noi giornalisti, alcuni sono rimasti a casa. Il primo che è l'ultimo dei Macworld e il secondo è che è il primo senza Steve Jobs. Sì, ufficialmente Macworld, alcuni dicono, continuerà. Di fatto, non partecipando più la Apple, lo chiudono. Probabilmente insomma, verrà chiuso. Beh, sicuramente da mettere sui libri di storia, perché per la prima volta Steve Jobs non partecipa e quindi di fatto questo ha decretato la fine di questa avventura, di questa emozione. Sì, ci sono state anche numerose riflessioni da parte degli analisti di borsa e i cosiddetti rumors che si inseguono su internet sul perché e sul per come, e Steve Jobs, che ha sofferto negli anni passati, nel 2004 venne operato di un tumore, si immaginava potesse avere una recidiva, anche perché è stato visto in pubblico più volte molto dimagrito. Non è un fatto solo di privacy e di salute personale, ma ha anche un impatto molto forte sull'azienda. Ricordiamoci che Apple in questo momento ha un market cap che è paragonabile a quello di IBM, e se salta il suo amministratore delegato è impossibilitato, questo vuol dire un bel tonfo in borsa, tant'è che lui pochi giorni prima del Macworld di martedì ha specificato che in realtà ha una piccola disfunzione ormonale che sta curando, per il resto sta benissimo e non è quello il motivo per cui non va al Macworld. Vedremo se questa è la realtà o è una scusa ufficiale, eccetera eccetera. Abbiamo iniziato la nostra chiacchierata con un brano che ci ricordava di San Francisco, adesso vorremmo farvi ascoltare in un'altra delle rare occasioni in cui ascoltiamo musica a 2024, poi vi spiegavo anche perché abbiamo scelto la musica per accompagnare questa chiacchierata. Tony Bennett, sentite cosa dice. Questa è una registrazione pirata fatta da un amico che ce l'ha mandata dopo la presentazione, dopo il keynote, dopo questa canzone storica di Tony Bennett, che dice I left my heart in San Francisco, quindi ho lasciato il mio cuore a San Francisco, che è un po' quello che dicevamo prima. Molti appassionati della mela probabilmente, tu stesso forse almeno un pezzo del tuo cuore ce l'hai a San Francisco. Un ventricolo, sì. Un piccolo pezzo della orta. Beh, San Francisco è una città meravigliosa. Quello che questa canzone è di un crooner, poi la cosa meno moderna che si possa pensare in questo momento, in realtà molto bella e straordinario artista, che fa venire in mente Apple, ha questa capacità geniale di precorrere leggermente i tempi del mercato. Non parliamo di iPod, di iPhone, di queste cose. Pensiamo che 5 anni fa iniziato a investire pesantemente sui computer portatili prima che apparisse quello che sta succedendo adesso, cioè una totale inversione di mercato, si comprano più portatili che non fissi. Ecco, il fatto che Apple dica è la fine delle fiere, a noi non interessa più esserci qui, abbiamo lasciato il nostro cuore a San Francisco, ma poi viene cantata un'altra canzone che si dice parecchie cose belle sono davanti a noi ancora. Ecco, questa cosa fa pensare che forse le grandi fiere dell'elettronica, in cui veniva annunciato come se fosse il momento clou dell'anno, sfigatissimo per Apple se si può dire, perché gennaio, dopo le vacanze di Natale, è un pessimo momento per annunciare novità, sia terminata, e questo suona un po' come una campana negativa. Non pensiamo a noi, all'Europa, ma pensiamo al CES, la Computer Electronic Show di Las Vegas, che è il più grande al mondo, oppure quello che viene fatto anche in Germania. È probabile che questo tipo di cambiamento ci sia. Apple ha detto una cosa che a me da questo punto di vista ha colpito molto: in una settimana passano 100 volte le persone che sono al Macworld all'interno dei nostri negozi presenti sia negli Stati Uniti che in Europa e che in Asia, e poi abbiamo uno dei primi 10 siti più visti al mondo, quello di apple.it o .com. E cosa vuol dire? Vuol dire che non si comunica più come una volta, si comunica nel blog, nel negozio, si comunica in mille altri modi altrettanto se non più emozionanti. Non a caso Apple ha annunciato che aprirà altri negozi in giro per il mondo. Abbiamo scelto di farvi ascoltare un po' di musica oggi, anche se per pochi secondi, perché la musica, comunque, a proposito di vedere lontano, è una parte importante del business della Apple. Vorrei parlare adesso di musica, ma vorrei partire con una domanda relativa ai cosiddetti DRM, cioè questi blocchi che le case discografiche vogliono mettere sulle canzoni che noi compriamo in rete e che Apple ha annunciato per alcune canzoni non ci saranno più. A proposito di vedere come andranno le cose nel futuro, possiamo pensare che tra qualche anno non ci saranno più canzoni con limiti, quindi potremo suonarle, copiarle come vogliamo? Non ci saranno più canzoni con questi lucchetti digitali, però gli obblighi giuridici ci saranno. Io ho trovato un'immagine, mi è stata detta da un avvocato e mi ha colpito molto, e cioè il lucchetto digitale è un limite tecnologico come il dissuasore stradale, no? Il dosso che impedisce di accelerare su un tratto di strada in cui c'è il divieto di superare i 50 km all'ora. Quello che stanno facendo adesso è stanno togliendo il dissuasore, cioè stanno togliendo il dosso, cioè stanno togliendo il lucchetto digitale. La canzone puoi farne quello che ti pare, così come su quel tratto di strada puoi andare anche ai 200. Però il limite resta ed è sanzionabile, la legge è ancora valida. È un rapporto di maggiore fiducia. Perché c'è questa maggiore fiducia? Perché la musica adesso diventa così, fra virgolette, morbida? Prima di tutto perché i DRM erano una cosa, quindi questi lucchetti, molto innaturale, che impediva a chi voleva comprare la musica di farne un utilizzo normalissimo. Ho due computer e due lettori e non riesco a muovere la musica, non me la posso masterizzare per sentire in macchina. Ma anche quindi, la voglio prestare a un mio amico, insomma, anche semplicemente. O alla fidanzata. È l'uso, è il fair, è l'uso legittimo che chiunque può fare. E d'altro canto, invece, le giovani generazioni, che sono molto più ingaggiate in questo tipo di utilizzo della tecnologia, volevano qualche cosa di compatibile. Apple non è la prima a togliere i lucchetti digitali, assolutamente, però lo fa con lo stesso spirito con cui a suo tempo aveva lanciato il suo negozio di musica digitale. La musica digitale di Apple è i tre quarti del mercato mondiale, sostanzialmente. Quindi, anche se non è la prima, comunque è interessante che Apple faccia questa scelta. È assolutamente così ed è molto molto interessante come Apple era arrivata ad essere tre quarti del mercato mondiale. Era arrivato dicendola: noi venderemo la musica in una maniera più, come dire, amichevole ai clienti, ovvero sia non facendoci competizione con altri che vendono musica, ma cercando di offrire un servizio migliore e più equo della musica copiata. E non ce lo dimentichiamo che la musica in rete nasce prima pirata e poi in qualche modo viene trasformata in legittima. Abbiamo commentato uno degli annunci che è stato fatto al Macworld, dove ha parlato il numero due dell'azienda, come non l'abbiamo detto, ma Phil Schiller, insomma, capo del marketing. Uno sconosciuto per molti. Sì, uno sconosciuto, comunque, ma un habitué, perché in realtà è un personaggio simpatico. Io l'ho intervistato anche un paio di volte, un po' cicciotto, che Steve Jobs usa quando fa lui i suoi keynote, i suoi discorsi, come spalla comica, diciamo. Lo chiama sul palco per far vedere le cose. Abbiamo commentato questo annuncio, cioè Apple ha detto che finalmente tra qualche settimana alcune canzoni non avranno più questi lucchetti. Poi cambierà anche il modo con cui verranno vendute dal punto di vista del prezzo, perché ci saranno le canzoni che costano meno di un dollaro, quelle che rimangono a 0,99, quelle, le hit che invece costeranno un po' di più, eccetera eccetera. Questo è un aspetto, una rivoluzione interessante, comunque un cambiamento interessante. A proposito di musica, c'è anche una novità che riguarda la telefonia mobile, o comunque il rapporto tra il negozio, l'iTunes Music Store, e il telefonino di Apple. Sì, loro sono americani come testa, e quindi come tali ragionavano sul loro mercato e avevano impedito a chi ha il telefonino di scaricare la musica tramite la rete telefonica, quindi l'UMTS, ma solo tramite il Wi-Fi o il computer e poi collegato al telefonino. Perché là è molto diffuso il Wi-Fi. Esatto, e qui no, e questo era il problema. E si sono accorti che la maggior parte dei telefoni in realtà li vendono fuori dagli Stati Uniti. Adesso hanno sbloccato questa modalità e sicuramente questo, secondo alcuni analisti, farà crescere le vendite di musica. E il fatto che poi si tratti di musica, perché il problema è che Apple passa come monopolista. In realtà, se anche Apple, grazie al cielo, comincia a vendere musica senza i suoi benedetti DRM, lucchetti digitali, l'acquisti sul telefonino e poi la passi su un altro lettore che non è di Apple, e finalmente si apre un po' questo mercato che stava diventando fatto solo di iPod e di iPhone. Tu hai citato i computer portatili. Apple non ha ancora un netbook, oggi che si parla molto di netbook, però alcune novità sono arrivate. In attesa di vedere se mai ci sarà un netbook di Apple, ci sono alcune novità che forse rappresentano l'altro annuncio interessante che è stato fatto a questo Macworld, che non ha annunci stellari come siamo abituati, ma insomma qualche novità c'è stata. Certo, loro hanno una gamma abbastanza limitata di 4 computer portatili, 3 li avevano già aggiornati, hanno presentato, come dire, aggiornati pesantemente con nuove tecnologie, hanno presentato l'ultimo, il quarto, con un grande schermo da 17 pollici e soprattutto questa batteria straordinaria non sostituibile, che non solo dura 8 ore, ma ha 3 volte tanto i cicli di ricarica che di solito hanno le batterie. Sì, questa è la cosa interessante. Esatto, per cui si immagina che duri per un migliaio di cicli di carica, quindi 5 anni. anni nell'uso medio che ne fa una persona. E soprattutto il punto che Apple sta tirando fuori, e anche questo è interessante, è l'attenzione che hanno al fatto di fare dei prodotti non solo ambientalmente responsabili, sì, quindi altamente riciclabili, eccetera, ma anche efficienti, perché spesso si dimentica che si parla sempre di fonti alternative di energia, ma si dimentica che una delle vere grandi fonti alternative di energia è il non consumarla, sì, è l'efficienza, sì, sì, e quindi avere un prodotto che inquina meno perché dura di più, avere un prodotto che consuma meno perché è fatto con maggiori accortezze, vuol dire effettivamente evitare di devastare un po' di ambiente, un po' di energia rinnovabile o non. Antonio, grazie per essere stato con noi. Buon divertimento, perché insomma il nostro mestiere è anche un divertimento, e anche buon lavoro. Ti ringrazio altrettanto. E ricordo che Antonio Dini, assieme al Sole 24 Ore, ha pubblicato Emozione Apple, quindi per gli appassionati sicuramente, ma anche i curiosi della tecnologia, questa sicuramente è una lettura gradevole e divertente, anche istruttiva, perché racconta la storia di questa azienda che a sua volta ha fatto la storia dell'informatica, una parte almeno della storia dell'informatica. È tutto per questa edizione di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, grazie anche a Luigi Borghi in redazione. Scriveteci a 2024@radio24.it, 2024@radio24.it. Torniamo la prossima settimana, sempre nel pomeriggio del sabato di Radio 24. Non dimenticate che la nostra puntata è disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it nelle pagine di 2024. Appuntamento alla prossima settimana. You are disconnected.